Pur compiaciuto del progresso dei suoi figli, al re non passò mai per la mente che sarebbe stato anche più rapido se avesse evitato di togliere l'insegnante alla classe ogni volta che doveva scrivere una lettera in inglese. E non erano quelle le sole interruzioni. Qualche volta i motivi dell'interruzione erano sufficientemente interessanti da giustificare il tempo perso. In una fredda mattina, durante quel primo anno, alcuni allievi corsero da Anna gridando eccitati: «Mem! Mem, è arrivato! Il grande principe è arrivato! Non è meraviglioso?» «Che principe?» chiese, pensando che era strano che non avesse sentito parlare prima del reale in visita. «L'elefante bianco! Il nostro angelo guardiano!» urlarono in coro, mentre la notizia si spargeva in città. Il re, i contadini, i padroni e gli schiavi, i giovani e i vecchi si congratularono l'un l'altro pieni di gioia. In tutti i templi si fecero immediatamente preghiere e offerte. Vennero ordinate, preparate e approvvigionate con l'occorrente per una settimana 75 chiatte e 100 barche regali per portare il re e la sua famiglia, le amazzoni e gli ufficiali di corte al posto dove era stato visto l'elefante bianco. Anna chiese il permesso di seguire la corte nella vecchia capitale di Ayuntia. L'animale di buon auspicio era stato visto là durante la raccolta annuale degli elefanti nella foresta. Prima del tramonto il corteo era fuori dalla portata delle urla delle migliaia di persone che si erano radunate sulla riva del fiume. Le barche raggiunsero Ayuntia la mattina seguente. Il corteo si trasferì sui cavalli e cavalcò per chilometri in un bel paesaggio fino al kraal, il recinto dove avveniva la raccolta. Non appena arrivarono al palazzo del re, sul lato nord del kraal, salirono una ripida scala che conduceva a una torre aperta con una magnifica vista della campagna. Davanti a loro c'era il kraal, con i pali infilati nel terreno uno vicino all'altro in modo da formare un cerchio di 6 o 7 chilometri di diametro. Accanto alla torre, una camera conteneva un immenso tamburo, accanto al quale stavano 12 uomini pronti a suonare l'inizio della caccia. 150 elefanti addestrati erano schierati intorno al palazzo. Su ognuno c'erano due uomini, uno dietro con un pungolo per spingere il pachiderma all'assalto e uno davanti armato di lance, arpioni e una faretra di frecce. Nel momento in cui fece la sua comparsa il gruppo reale, gli elefanti si mossero a formare un semicerchio. Ogni cacciatore alzò la lancia per salutare. Si udì gridare un comando e le enormi bestie si piegarono e sollevarono la proboscide in alto per riabbassarle in un gigantesco salamelecco. Subito dopo, il colossale tamburo tuonò il segnale d'apertura della caccia. Gli elefanti si dispersero nella campagna dove gli elefanti selvatici stavano brucando, poiché durante le settimane precedenti, dai consueti pascoli, erano stati spinti più vicino al recinto. Continuavano a muoversi, ogni volta costringendo gli animali selvaggi in un cerchio sempre più stretto. Poi si udirono una terrificante successione di barriti da parte degli elefanti intrappolati e le grida dei cacciatori: «Non fateli scappare!» mescolati al rumore assordante dei corni da caccia e delle trombe. Via via che gli elefanti selvaggi si avvicinavano, le grida si facevano più acute, finché alla fine il gruppo reale riuscì a vedere gli animali accerchiati dai cacciatori buttarsi selvaggiamente in avanti. All'improvviso, una terribile creatura nera credette di aver trovato un varco vicino e si slanciò verso l'ingresso del kraal. Tutta la mandria caricò dietro di lui, barrendo di rabbia e di paura con le proboscidi in aria. Era quasi mezzogiorno e la caccia si era conclusa con successo. Per la gioia isterica del gruppo reale, una grossa bestia color salmone ansimava e barriva nel mare di quelle grigie e nere. Per ore i pachidermi in trappola corsero avanti e indietro, sferzando i pali con le proboscidi, cercando di sradicarli, gettandosi a peso morto contro la barriera di pali, tutto invano. Il sole tramontò e le bestie, stanche, alla fine si ammassarono insieme con l'elefante bianco in mezzo a loro. Il mattino seguente, gli elefanti cercarono di nuovo di liberarsi, finché nel pomeriggio, stanchi e affamati, si rassegnarono e cominciarono a mangiare i rami che trovavano nel recinto. Era il segnale che i cacciatori sui loro elefanti addomesticati potevano entrare, seguiti da una sessantina di uomini con le provviste. Gli elefanti addomesticati furono liberati, mentre quelli appena intrappolati vennero tentati con l'erba e con la canna da zucchero. Se qualcuno era troppo famelico, i cacciatori lo colpivano con forza. In meno di mezz'ora gli elefanti prendevano quello che veniva loro dato, senza ribellarsi. A questo punto furono incatenati per le zampe agli elefanti addestrati. Solo l'elefante albino non fu legato ad altri animali. Al suo collo vennero annodati diversi cordoni di seta che erano stati ancorati a un palo. Oltre all'erba fu rimpinzato di dolci. In un paio di giorni fu aperta una larga strada attraverso la zona che doveva percorrere per andare a Bangkok. Il dorso dell'elefante fu coperto con un drappo d'oro e il ritorno trionfale verso la capitale ebbe inizio. Persino il re ebbe una parte di secondaria importanza vicino al nuovo principe. Davanti all'elefante si esibirono giovani danzatrici, cantanti e suonatrici, alcuni uomini mostrarono la loro abilità e forza in salti mortali e nella lotta, altri gli facevano vento e lo imboccavano. Quando la processione raggiunse il fiume, fu issato a bordo di un palazzo di legno galleggiante, sormontato da un bellissimo tetto e da cui pendevano tendaggi color cremisi. Sembrò che non gli piacesse. Nonostante il fatto che il tetto fosse pieno di fiori ingegnosamente intrecciati in modo da formare simboli e motti che il dotto animale avrebbe dovuto decifrare facilmente. Il pavimento della chiatta era ricoperto da una stuoia dorata con disegni curiosi. L'elefante venne sistemato al centro. Attorno a lui c'erano degli attendenti che lo lavavano e lo profumavano, gli cantavano ninne nanne, gli facevano arie e lo lodavano fino a quando giunse alla capitale. La notizia dell'arrivo imminente lo aveva preceduto a Bangkok e fu salutato da grida di gioia, dal rombo dei tamburi, squilli di tromba e salve di cannone. Una grossa compagnia era in attesa sulla riva del fiume per seguirlo nel padiglione provvisorio dove i custodi del palazzo e i personaggi più importanti della famiglia reale gli diedero il benvenuto con cerimonie imponenti. Il re, i cortigiani e i sacerdoti più elevati si riunirono intorno a lui per il rito del ringraziamento. Poi, secondo la tradizione siamese, la bestia venne consacrata cavaliere, versando sulla sua testa una conchiglia di acqua sacra. Gli fu attribuito il titolo di Pia Sri Wongsi Decha Saralai Krasat, che significa bel signore di una famiglia potente. Sulla proboscide furono infilati anelli d'oro. Una catena d'oro gli fu posta attorno al collo e gli coprirono il dorso con un drappo di velluto rosso con frange scarlatte e d'oro. Per 7 giorni fu coccolato e viziato mentre tutta la città festeggiava. I siamesi, Anna scoprì, credevano che Buddha nelle sue trasmigrazioni occupasse la forma di animali bianchi, come il cigno, la cicogna, il passero bianco, la colomba, la scimmia e soprattutto l'elefante. Pensavano che le forme di queste creature fossero riservate alle persone grandi e importanti. L'elefante, in particolare, doveva essere animato dallo spirito di un re o di un eroe e perciò portava alla gente prosperità e pace. Una nuova stalla imponente era stata iniziata per il principe, che veniva nutrito con l'erba migliore, la canna da zucchero più dolce, le banane più mature e i dolci più deliziosi. La sua acqua era profumata al gelsomino, fu troppo. Durante la settima notte fu colpito da un severo attacco di indigestione e, nonostante fosse stato convocato il dottore del re, morì nel giro di poche ore. Nessuno osò portare la catastrofica notizia al sovrano, ma il Kralahome, uomo dai pronti espedienti e dall'infallibile presenza di spirito, convocò migliaia di schiavi per abbattere le nuove stalle. Lavorarono in fretta, terrorizzati che il re comparisse prima che avessero finito. Quando, nel tardo pomeriggio, arrivò per vedere i progressi del lavoro, non trovò nient'altro che vuoto. Capì immediatamente la verità e con un grido di dolore si abbatté su una pietra e pianse amaramente. La piccola Fa Ying, debitamente istruita, strisciando, si avvicinò a lui e lo consolò. «Non piangere, padre mio, forse il signore straniero non ci ha lasciato che per poco». Ma il re non riusciva a controllare il suo dolore. Passò qualche tempo prima che si rianimasse abbastanza per dare gli ordini per le esequie. L'intera nazione fu in lutto. Ma anche se il signore straniero era considerato un reale, non venne cremato. Solo il suo cervello e il suo cuore furono considerati degni di questo onore. La sua carcassa venne avvolta in lino bianco e posata in un feretro. Poi venne portata sul fiume con molti lamenti funebri e canti per essere gettata nel golfo del Siam. Il re commemorò il signore straniero in un proclama stampato dalla tipografia reale. Più tardi, quando la vita tornò alla normalità dopo la paralisi del lutto, lo lesse ad Anna. A lei ricordava fortemente la descrizione della regina Vittoria scritta dall'ambasciatore del re al suo ritorno dalla corte inglese alcuni anni prima. Aveva detto di lei: "Non si può non essere colpiti dall'aspetto dell'augusta regina d'Inghilterra o non osservare che è una pura discendente da una razza di re, guerrieri e imponenti, comandanti della terra, perché nei suoi occhi, nel suo colorito e soprattutto nel suo portamento, ritroviamo la bellezza e la maestosità dell'elefante bianco." 20. La casa dalla porta d'Ottone. In marzo, mentre il re e la corte erano a Pechaburi, Anna e Louis andarono in vacanza a Singapore. Avis finalmente era a scuola. Il Ranu ci aveva messo 6 mesi a raggiungere l'Inghilterra invece di 3 e quindi lei aveva perso tutto il primo trimestre. Fu un sollievo per Anna ricevere una lettera dalle signorine King che comunicava l'arrivo di sua figlia a scuola subito dopo l'inizio dell'anno. Prima della fine di aprile, Anna ritornò a Bangkok e riprese di nuovo il duplice ruolo di insegnante e di segretaria. Il 21 maggio 1863 fu un giorno che non dimenticò mai. Poteva dividere la sua vita in molte parti. C'erano i tempi del Galles, un periodo di sogno quando era bambina, poi ci fu il palcoscenico sfarzoso dell'India, la breve parentesi in Inghilterra, gli anni di Singapore e la vita in Siam. Ma, dopo quella mattina di maggio, la sua vita in Siam andò in pezzi. Era arrivata come sempre alla scuola nel tempio mentre l'orologio batteva le 9. Louis quel giorno non era con lei perché aveva qualche linea di febbre. Il tempio delle madri dei liberi era vuoto. I suoi allievi erano alla cerimonia del Mahaprasat dall'altra parte del palazzo e avevano lasciato detto che anche lei vi doveva partecipare. Anna si mise subito in cammino. Era scrupolosa nel partecipare a qualsiasi cerimonia venisse invitata perché stava cercando di capire la strana vita che si svolgeva intorno a lei. Ogni volta che pensava, soddisfatta di essere penetrata nel mondo fisico e mentale delle donne e dei bambini a cui insegnava, capitava qualcosa a dimostrarle che l'interno era incomprensibile e confuso come sempre. Si stupiva ancora quando coglieva lo sguardo vivace di una mente acuta nelle lunghe gallerie e nei corridoi, dove improvvisi e accecanti raggi di luce rompevano il buio inviolabile. Il sorriso sulla faccia di un bambino, una sorella che sopportava senza lamenti né lacrime la punizione del fratello, una madre che cantava il suo neonato sacro, una schiava che singhiozzava prostrata davanti a un impassibile Buddha, una concubina con la schiena lacerata dalle frustate somministrate da schiave silenziose e furtive. Queste immagini la riempivano di un senso di pena profondo. Sentiva sempre più acutamente dentro di sé la nascosta solitudine dell'animo umano che soffriva e la mancanza di speranza di coloro che non avevano né diritti né soddisfazioni. Ogni volta che superava i massicci cancelli dell'harem, calava su di lei la sensazione opprimente che fosse un carcere in cui donne e bambini senza colpa venivano imprigionati a vita. Sembrava impossibile che dietro le mura del palazzo ci fossero campi verdi e pieni di fiori, o che i bambini dei poveri vi giocassero nudi, abbandonati, ma ricchi di libertà. Nei vicoli stretti e bui della città, dentro la città, belle donne andavano e venivano leggere, i piedi dei bimbetti scalpicciavano, i figli del re erano portati a spalla dagli schiavi. Ad Anna sembrava che si muovessero tutti sotto una nuvola, tristi, disperati, sbattendo incessantemente le ali contro le sbarre della loro gabbia. Per un certo periodo una bella fanciulla che era venuta qualche volta a lezione non si fece vedere. La ragazza aveva 2 bambini e quando sentì che tormentavano la zia con la domanda quando tornerà a casa la mamma, senza ottenere risposta, Anna si informò con un'allieva. La donna la guardò senza proferire parola, poi significativamente si mise l'indice sulle labbra e se lo passò sulla gola per farle capire che la fanciulla era stata giustiziata. Anna provò di nuovo disgusto vedendo che le donne attorno a lei non erano padrone delle loro vite più di una bestia in un campo. Molte erano entrate nel palazzo contro la loro volontà, sapendo che non ne sarebbero uscite vive, e tuttavia alcune avevano accettato il loro destino con una calma che ancor più dei visi scontenti delle altre raccontava quanto fossero morti i cuori sotto quell'involucro immobile. Quel mattino di maggio, comunque, l'interno sembrava svuotato dei suoi abitanti. Anna, con esitazione, si era messa alla ricerca del Mahaprasat, senza avere idea della strada da prendere. Dopo aver vagato un po' a vuoto, incontrò una venditrice di fiori. Seguendo le sue indicazioni, si trovò in un meandro di vicoli scuri finché imboccò una strada tetra. La luce del sole non penetrava i muri della casa che la delimitava. Lungo la strada erano sistemate delle panche di pietra scurite dal muschio e dai funghi, e una specie di erba cupa pavimentava il sentiero. Anna procedette più lentamente, convinta di essersi persa. Guardò prima da una parte e poi dall'altra alla ricerca di una traversa, ma non ne vide. Ben presto si trovò alla fine della via, davanti a un muro di mattoni. Si fermò a guardarsi intorno. Dietro di lei si stendeva la strada deserta. Davanti a lei c'era una porta di ottone lucido. Sopra torreggiava una facciata grottesca che gettava sulla strada deserta un'ombra come un drappo scuro. Il palazzo, con i suoi rumori quotidiani, distava soltanto 15 minuti. Tuttavia, la solitudine del posto era strana. Il suo silenzio aveva una qualità magica. Mentre Anna aspettava incerta, il vento mosse l'erba secca in cima al muro con una specie di lamento. Le venne la pelle d'oca e, vergognandosi delle sue paure, si fece coraggio parlando a voce alta. Si slanciò con il suo peso contro la porta massiccia e la spinse. Si aprì sui cardini ben oliati, lentamente, senza rumore. Attraverso un'alta soglia entrò in un cortile pavimentato. A destra c'era un giardino e sulla sinistra un edificio. Il muro circondava entrambi. I sentieri del giardino erano delimitati da file regolari di alberi nani cinesi, metà coperti d'erba e metà di muschio. La facciata della vecchia casa era ancora più in rovina e tetra di quella del muro. Per la signora inglese, che teneva ancora la porta aperta, timorosa di essere entrata in un luogo proibito, aveva un aspetto sinistro. Le finestre erano chiuse e quelle al piano superiore avevano pesanti persiane come una prigione. Un lieve movimento le fece posare gli occhi su una figura animata che da prima non aveva visto. Nel mezzo del giardino, vicino a una piccola pozza d'acqua, per terra sedeva una donna. Allattava un bambino nudo di circa 4 anni. In quel momento anche lei vide Anna e alzò la testa con un movimento convulso, strinse le braccia nude attorno al bambino e la guardò con occhi fissi e torvi. Aveva una corporatura robusta e colorito scuro, sembrava più una figura grottesca intagliata nella pietra e messa lì a spaventare gli intrusi che un essere umano. Aveva un aspetto desolato e sulle spalle le cadevano dei lunghi capelli arruffati. Anna lasciò andare la porta, che si richiuse con un tonfo minaccioso, e tremante rimase a guardare la provocatoria figura nera. Aveva deciso di chiederle aiuto per trovare il tempio e non aveva intenzione di spiare nei segreti della casa deserta, sia che fossero innocenti o truculenti come quelli di Barba Blu. Nel momento in cui si avvicinò alla donna e al bambino, Anna dimenticò le sue paure in un'ondata travolgente di pietà. La donna era nuda fino alla vita, incatenata per una gamba a un palo infilato per terra, senza il minimo riparo dal sole cocente. La catena era di pesante ferro battuto, 7 lunghe maglie doppie attaccate a un anello e tenute al palo da un chiodo a doppia testa. Sotto di lei una stuoia a brandelli e più in là, per cuscino, un pezzo di legno e parecchi ombrelli cinesi rotti. La donna non emise alcun suono, tenne solo gli occhi fissi sulla sconosciuta dalla pelle bianca. Nemmeno un pericoloso criminale avrebbe dovuto essere privo di protezione sotto il terribile sole tropicale. Ma questa schiava, quasi nuda, con i capelli arruffati, era qui da molto tempo, come testimoniavano la stuoia, il cuscino e gli ombrelli rotti. Un caldo senza tregua la circondava, senza dubbio la pioggia la sferzava, era stata degradata a un livello in cui non ci si poteva aspettare da lei nessuna dignità, e tuttavia c'era qualcosa di bello nella sua preoccupazione per il bambino. Domande indignate si agitarono nella mente di Anna. Avrebbe potuto mettersi a piangere per il tumulto rabbioso che si agitava nel suo animo. ma rimase in silenzio per alcuni minuti, senza poter controllare la voce. Alla fine chiese alla donna come si chiamava. Paisia, vattene, fu la risposta selvaggia. Per nulla scoraggiata, Anna provò di nuovo. Perché sei incatenata qua? Non lo vuoi dire? Non devi avere paura di me. Pai, pai, pai! Strillò la donna, strappando con impazienza il seno al bambino che succhiava e voltando la schiena ad Anna. Il bambino emise un lamento che riecheggiò fra i muri. La donna si voltò e lo prese tra le braccia e lui si intranquillizzò subito. Era un bambino robusto, sudicio ma sano. Lei lo cullò avanti e indietro con la faccia appoggiata alla guancia sporca. Anna la guardò con maggiore attenzione e mentre osservava la forma delle ossa sotto la pelle indurita, pensò: deve essere stata graziosa una volta. Gentilmente chiese l'età del bambino. La schiava la guardò con diffidenza, ma non si girò. 4 anni, rispose brusca. Anna insistette: come si chiama? Tuk, dolore, rispose riluttante, voltandole le spalle. E perché gli hai dato un nome simile? Di nuovo la donna si girò verso Anna. Qualcosa le brillò negli occhi, ma prima che lei potesse interpretarlo era scomparso. Cos'è per te, donna? Ricadde nel suo silenzio tetro, fissando il vuoto con insistenza. Rimasero così sedute tutte e tre per diversi minuti, ma Anna si rifiutò di accettare come definitivo questo impasse. La schiava aveva diritto a diffidare degli altri esseri umani. Tuttavia, c'era una chiave che poteva aprire la porta del suo cuore. Lentamente la schiava si passò le braccia nude sugli occhi, da cui era sgorgato un fiume di lacrime. Questo fu il segnale perché il bimbo si mettesse a strillare con energia. La donna lo calmò e poi, con grande sorpresa di Anna, prese a parlare spontaneamente. È venuta a cercare me, graziosa signora? Mi è stata mandata da Naikodak, mio marito? Sta bene? È venuta a comprarmi? Con un rapido movimento del corpo si prostrò davanti ad Anna. Anna respinse i riccioli scuri dalle guance bollenti e con esitazione le chiese: perché sei incatenata qua? Che crimine hai commesso? Alla donna sembrò una domanda terribile. Il suo viso divenne una maschera di angoscia, le labbra nere si mossero, ma non ne uscì alcun suono. Con un movimento convulso buttò le mani sopra la testa e si mise a piangere. Muoveva il corpo avanti e indietro, sconvolto da appassionati singhiozzi, mentre Anna la guardava allarmata e impotente. Dopo un po' si tranquillizzò e, girando il viso verso Anna, disse amaramente: vuole conoscere il mio crimine. È stato quello di amare mio marito. Anna era sempre più perplessa. Allora perché lo hai lasciato per diventare una schiava? Graziosa signora, sono nata schiava. È stata la volontà di Allah. L'uso della parola Allah diede un indizio ad Anna. Sei musulmana? I miei genitori lo erano, schiavi del padre della mia padrona. Ciao Chom Manda Ung. Quando eravamo giovani, mio fratello ed io fummo mandati come schiavi a sua figlia, la principessa Butri. Se puoi provare che i tuoi genitori erano musulmani, penso di poterti aiutare. Tutti i musulmani qui sono sotto la protezione britannica e nessun suddito britannico può essere ridotto in schiavitù. Ma graziosa signora, i miei genitori si sono venduti al nonno della mia padrona. Era un debito loro, che hanno pagato ripetutamente con il loro fedele servizio. Puoi insistere che la tua padrona accetti il denaro per il tuo acquisto? Insistere? Gli occhi della schiava brillarono di rabbia. Sa chi è la mia padrona? È la Chao Chom Manda Ung, è la figlia di Chao Phya Nikon Badinton, il ministro del Nord, l'uomo più potente del regno dopo il Kralahom. È potentissima! Insistere? Rise con disprezzo. Io che sono nata schiava. Il fuoco che le aveva illuminato gli occhi mentre parlava scomparse, scomparve. No, l'unica speranza di libertà per me è il perdono della mia padrona, che non mi darà mai. E i tuoi amici fuori del palazzo? Suggerì Anna. Forse loro possono fare qualcosa. Li hai informati della tua prigionia? No. Sono stata presa troppo in fretta. Forse mi credono morta e qua non posso parlare con nessuno, nemmeno alla schiava che mi porta il cibo. A distanza di anni la mia scomparsa è ancora un mistero. Nessuno viene qui se non la Chao Chom Manda Ung. Lei viene ogni tanto con gli schiavi più fedeli. Adesso che è vecchia, il re le permette di uscire dal palazzo come vuole. E ogni tanto i suoi schiavi vengono a potare gli alberi nel giardino o a pulire la casa, ma non hanno niente a che fare con me se non per prendermi in giro. Se uno di loro mostrasse qualche interesse per me, gli altri lo direbbero alla padrona. La sua voce era colma di disperazione. Nella solitudine si sentirono battere le 11. Anna si era dimenticata della cerimonia a cui doveva partecipare. La donna si coricò a riposare accanto al bambino che dormiva, apparentemente svuotata dallo sforzo del racconto. Non chiese aiuto una seconda volta, accettando l'impotenza della straniera contro una persona così potente come la sua padrona. Anna mise il suo ombrellino sulla testa della schiava in modo che le riparasse gli occhi e quelli del ragazzo. Questo semplice atto di gentilezza la toccò a tal punto che improvvisamente si alzò e prima che Anna glielo potesse impedire le baciò le scarpe sporche e piene di polvere. Gli occhi di Anna si riempirono di lacrime. Sorella, le disse con improvvisa determinazione usando la gentile parola siamese, raccontami la tua storia dall'inizio e io la riporterò al re. La donna si alzò rapidamente e sistemò l'ombrello sopra il bambino che dormiva. Con gli occhi accesi cominciò a raccontare. Graziosa signora, mi chiamo Lore. Mio fratello e io siamo nati schiavi. Eravamo entrambi così fedeli che diventammo i preferiti di Chao Chom Manda Ung. Mio fratello fu messo a capo di una delle sue piantagioni di riso ad Ayutthaya e io fui nominata cameriera personale della principessa Bhutri. Un giorno Chao Chom mi affidò una borsa di denaro e mi mandò a comprare della seta di Bombay da Nai Khoda Ibrahim. Era la prima volta in molti anni che uscivo dal palazzo. Mi sembrava di essere nata di nuovo, come se il mio passato non fosse stato altro che un sogno agitato. Ero ammutolita per la sensazione di felicità suprema. Quel giorno a Oriente si accese una luce nuova, una luce che doveva da un lato illuminare e dall'altro velare tutta la mia vita futura. Si interruppe per un attimo. Con un mezzo sorriso, Anna era sorpresa per il modo in cui la schiava si esprimeva. Aveva la rara abilità, molto ambita dalle donne del palazzo, di raccontare in poesia. E il suo racconto ne aveva il ritmo. La faccia scomposta e i capelli arruffati rendevano le parole piene di grazia. Senza dubbio, Chao Chom Manda Ung o la principessa Bhutri l'avevano istruita come menestrello. Anna la immaginava com'era, seduta sul pavimento con un liuto, mentre la sua padrona si riposava sul divano. Altre schiave in ginocchio agitavano dei ventagli con insistenza languida mentre Lore cantava la storia lamentosa di qualche amore morto da molto tempo. La schiava ricominciò il racconto. Attraccammo la barca alla riva del fiume e ci dirigemmo al negozio di Nai Khoda. I miei compagni entrarono mentre io li aspettavo sui gradini di fuori. Non riuscirono a mettersi d'accordo con il mercante, quindi entrai io, sperando che, vedendo il denaro, avrebbe venduto la stoffa al prezzo offerto. Invece rimasi abbagliata. Mi strinsi addosso la sciarpa a brandelli e mi sedetti. I miei compagni continuavano a contrattare, mentre io mi chiedevo dove l'avevo visto prima e perché avesse su di me un effetto simile. Dopo molto negoziare sulla seta, partimmo senza. Ma il giorno dopo tornammo e la comprammo al prezzo del mercante. Fui sorpresa di vedere che lui mi lasciava in mano 5 tikal quando lo pagai. Questo è nostro camrai, di nostra spettanza, dissero le altre donne strappandomeli via. Ogni tanto Chao Chom ci mandava nello stesso negozio. Il mercante era sempre rispettoso nei suoi modi verso di me. Invariabilmente lasciava 5 tikal per noi, ma io mi rifiutavo di dividere questo profitto. Il mercante prese a studiarmi con attenzione e un giorno, dopo che avevamo comprato alcune scatole di candele profumate e avevamo pagato il prezzo che chiedeva, lui lasciò sul pavimento accanto a me 20 tikal. Quando il mercante vide che non volevo prendere il denaro, riprese 15 tikal e ne lasciò 5, come al solito. Tornammo seguendo il fiume come era nostra abitudine. Ogni momento di libertà era dolce per noi e noi remavamo molto lentamente. Senza rendermene ancora conto, cominciavo a indugiare nella speranza di ottenere la libertà. Non sapevo come o quando. Si interruppe di nuovo. Anna era protesa ad ascoltare. La voce musicale riprese il racconto, ma con una tristezza malinconica. Un giorno una schiava venne dalla mia padrona con nuove merci da parte di Nai Khoda e quando mi vide chiese un bicchiere d'acqua. Mentre glielo porgevo, mormorò a voce bassa. Sei musulmana, liberati dalla schiavitù di questa razza miscredente, prendi i soldi per la tua liberazione dal mio padrone, esci dal Naiwang, dal palazzo interno e riprendi il tuo posto tra i veri fedeli del Signore. Ascoltai sgomenta, timorosa di rompere l'incantesimo delle sue parole con domande. Mi lasciò all'improvviso come se avesse paura di avere parlato troppo o di avere destato i sospetti della mia padrona. Ero turbata come non ero mai stata prima. I miei pensieri vagavano confusi come uccelli durante una tempesta, agitando le loro ali silenziose contro i cancelli chiusi della loro prigione. Trovai conforto solo nel grande cuore in alto e con l'istinto di coloro che soffrono mi rivolsi a lui. Quando rividi la donna in seguito le chiesi: come devo procurarmi il denaro per la mia liberazione? Dimmi, non vorrebbe il tuo padrone tenermi come schiava? Lei rispose: lui ti darà il denaro e non si pentirà mai di aver liberato dalla schiavitù una musulmana, figlia di un credente. Le gettai le braccia al collo, sconvolta dalla gioia, ma lei si liberò rapidamente e, preso un po' di denaro dalla sciarpa, lo infilò nella mia. Poi se ne andò senza un'altra parola. Ero terrorizzata dalla paura che mi prendessero con il denaro in mano, quindi quella notte venni qua e lo nascosi sotto il terreno su cui siamo sedute. Parecchie settimane più tardi ci mandarono ancora da Naikoda per comprare delle candele di legno di sandalo e fiori per la cremazione della giovane principessa Adung. Non ero mai stata così consapevole della povertà dei miei abiti come quel giorno. Facemmo i nostri acquisti e pagammo. Quando mi alzai per andarmene, la mia amica, la schiava che si chiamava Damni, mi fece un cenno. Il suo padrone ci seguì in una stanza interna e disse: ricordo ogni parola. Lore, sei così ingenua e così bella che hai suscitato la mia pietà. Guarda, questo è il denaro con cui mi hai appena pagato, il doppio del prezzo della tua libertà. Prendilo e non dimenticare chi ti ha aiutato. Possa Allah farti prosperare, esclamò Damni meravigliata. Ma io ero senza parole. Tutto quello che riuscii a fare fu scoppiare a piangere. Il mercante sorrise come se capisse, e tornò nel negozio mentre Damni mi asciugava gli occhi con un fazzoletto. Da quel giorno in poi vissi alla giornata aspettando e sperando. La libertà fisica sembrava essere quasi a portata di mano, ma nel mio cuore c'era un tipo nuovo di schiavitù. Sono più schiava che mai, pensai, perché chi mi può liberare dalla febbrile schiavitù dell'amore? Sono la schiava del bravo mercante per sempre. Un giorno Chow Chom fu talmente gentile con me che pensai che alla fine fosse giunta la mia occasione. Mi gettai ai suoi piedi e supplicai: graziosa signora, sia buona con la sua schiava e ascolti questa preghiera. Come il viaggiatore assetato assapora le sorgenti d'acqua eterne, o come l'uomo che muore ha visioni dell'immortalità, così la sua schiava Lore, per la sua bontà, ha assaggiato la libertà e vorrebbe bere più pienamente dalla tazza. È l'unico desiderio del suo cuore, il sogno della sua vita di schiava. Ecco il prezzo della mia libertà, graziosa signora. Abbia pietà, mi lasci libera. Non osavo guardarla in faccia, ma quando parlò capii che era furiosa. Mi rimproverò per la mia ingratitudine, mi ricordò tutte le gentilezze, tutta la cura e l'insegnamento che aveva profuso per me e mi accusò di egoismo. Io implorai e piansi. Sei nata mia schiava, disse con freddezza, e non prenderò il denaro per la tua libertà. Per me conti molto di più del denaro. Ma io implorai ancora, le misi il denaro davanti 3 volte, come è tradizione, e la supplicai di accettarlo. Ne prenda il doppio, mia onoratissima e graziosa signora. Mi lasci andare. Mai! Gridò con una voce terribile. E poi, come se avesse indovinato parte dei miei pensieri, chiese all'improvviso: desideri sposarti? È questo. Molto bene, ti troverò un buon marito e mi porterai i tuoi figli come ha fatto tua madre prima di te. Prendi il denaro e vai, o ti farò frustare. Era stato tutto inutile. Raccolsi il mio argento e tornai alla mia vita di schiava, sconfitta, senza speranza. Ben presto, comunque, mi consolai perché presi la decisione di scappare. Chow Chom sospettò per più di un anno. Le mie compagne videro che ero caduta in disgrazia e provarono pena per me. Io feci del mio meglio per mostrarmi obbediente e allegra. Dopo 2 anni Chow Chom mi riprese nelle sue grazie, anche se non mi lasciò più uscire dal palazzo. Alla fine organizzò il mio matrimonio con Nai Tim, uno dei suoi schiavi preferiti. Non feci obiezioni. Il giorno prima del matrimonio venni mandata dalla madre di Naitim con un piccolo dono da parte della mia padrona. Mi accompagnarono due donne forti. Avevo nascosto il denaro per il mio riscatto nel Panung. Non appena entrammo nella casa della mia futura suocera, chiesi il permesso di parlarle in privato. Pensò che avessi qualche messaggio da Chao Chom e mi portò nel retro della casa. Mi sedetti sul bordo della chiatta di bambù che faceva galleggiare la casa e senza darle il tempo di fare domande le raccontai la mia storia. Poi presi il denaro dal mio Panung e glielo misi nelle mani. E prima che potesse rifiutarlo mi buttai nel fiume. Mentre scomparivo sott'acqua sentii uno strillo stupefatto. Sono una brava nuotatrice, nuotavo disperatamente per salvarmi la vita. La corrente mi portò rapidamente a valle. Ogni tanto emergevo a prendere aria, poi ritornavo sotto. Quando mi mancarono le forze, mi diressi alla riva opposta e mi arrampicai sulla riva. Mi asciugai i panni nella brezza al sole. Non c'erano case intorno ed ero sicura che nessuno mi avesse visto dal momento che mi ero buttata nell'acqua. La vecchia avrebbe pensato che ero annegata e gli schiavi sarebbero tornati da Chao Chom con questa storia e anche lei mi avrebbe creduta morta. Un giorno dopo l'altro la mia anima era appassita, adesso fioriva di nuovo, come se non avessi mai conosciuto momenti di dolore. Mi ritornò il sorriso e non mi sentirò mai più in fondo al cuore felice come quel giorno. Non so quante ore sedetti così, ma mi sembrarono minuti. All'improvviso il sole calò. Calava la notte col suo mantello, il buio coprì la terra. Il vento iniziò a soffiare con potenti folate. Udii strani rumori che sembravano provenire non dalla terra, ma da qualche regno nascosto. Invocai gli angeli che mi mandarono il sonno. Quando mi svegliai, le stelle erano nel cielo, ma gli strani rumori mi disturbavano e caddi in ginocchio, gridando: «Oddio, dove sei? Porta il giorno! Vieni con il dolce carro e porta la luce!» «Credere, dice il profeta, è rinnovare il mondo ogni giorno.» Quindi, in risposta alle mie preghiere venne l'angelo Gibrael e strappò via l'oscuro mantello di Vrakam, il dio della notte, e disperse i mostri di ombra del mondo delle tenebre, lasciando il mio cuore pieno di riconoscenza mentre i miei occhi si riempivano di luce. Si interruppe ancora pensierosa. Ero stata abbagliata dall'idea della libertà. Ma dove sarei andata? Chi mi avrebbe preso? Non c'era nessuno in questa grande città a cui potessi rivolgermi se non il mercante e la sua schiava. Era sera quando entrai nella capanna di Damni, stanca e coi piedi doloranti. Lei fu felice di vedermi, mi diede cibo e rifugio e il suo abito migliore. Alcuni giorni dopo venne a trovarmi il mercante. Il mio animo mi diceva che sarebbe stato crudele resistere alle sue gentilezze, tuttavia non potevo credere che un ricco mercante avrebbe sposato una schiava come me. Ma un giorno, nel mio umile capanno, trovai un sari bianco. Dopo che Damni mi ebbe vestita, mi portò in una stanza dove attendevano il mullah, il mercante e alcuni suoi amici. Il mullah appoggiò il suo narghilè e si alzò. Mi mise le mani davanti alla faccia e mormorò una breve preghiera. Dopo prese l'estremità del mio sari e la legò strettamente all'estremità dell'angraka del mercante. Ci diede dell'acqua in cui erano stati imbevuti fiori di mirto e di gelsomino e mi filò al dito un anello d'oro. Quello fu il nostro matrimonio. Nei giorni seguenti ero come ubriaca. Ringraziavo Allah per il sole, per le belle giornate estive, per il cielo azzurro. Lo ringraziavo per la freschezza dell'alba e per la rugiada della sera. Un giorno, circa 3 o 4 mesi dopo il mio matrimonio, mentre ero seduta sugli scalini di casa, mi sembrò di sentire una voce nell'orecchio. Ebbi a malapena il tempo di girarmi, che fui presa, imbavagliata, legata mani e piedi e portata qui. Poi venni trascinata alla presenza della mia padrona, che mi fece incatenare questo palo. Rimasi qui fino al momento di dare alla luce il mio bambino. Un mese dopo la sua nascita, mi incatenarono di nuovo e mi portarono il bambino da allattare e continuarono a farlo finché non riuscii a venire da solo, ma non sono sgarbati. Quando piove forte, la schiava lo porta a dormire sotto un riparo. La voce di Lore era diventata flebile e indistinta. Avrei potuto liberarmi da queste catene se avessi promesso di non lasciare più il palazzo. Non lo farò mai, bisbigliò con un sussurro esausto. La testa le cadde sul petto, poi ricadde in avanti sulle pietre con le mani giunte, la faccia sepolta nella sabbia. Anna si inginocchiò rapidamente accanto a lei, ma non era svenuta. Era caduta in una sorta di allucinazione. Anna si sedette sulla pietra per stirarsi le gambe e riflettere. Guardava con stupore la donna che giaceva inerte sul pavimento davanti a lei. Il suo aspetto incolto, la pelle bruciata dal sole, i capelli arruffati, ma 4 anni di continua crudeltà, esposta al sole, al vento e alla pioggia, non avevano diminuito il suo coraggio o spezzato il suo spirito. Di certo, né il corpo né la mente della schiava avrebbero potuto sopportare molto altro. Anna fu colpita dal pensiero che era lei la risposta alle preghiere appassionate di Lore. Altrimenti, perché era giunta alla porta d'ottone? Nel labirinto del palazzo, il suo vagare apparentemente senza scopo aveva avuto una meta. Lasciò la schiava faccia in giù sul pavimento che scottava e ancora una volta oltrepassò la porta silenziosa. Le lunghe strade buie erano vuote come prima. Anna si mosse senza rumore sull'erba pallida che le ricopriva. Dopo 20 minuti che vagava nelle strade dell'harem, ne trovò una che era familiare. Quando raggiunse la scuola, erano le 12 e i suoi allievi la aspettavano al loro posto. Nel trambusto ordinato del tempio, la strana scena all'estremità dell'interno sembrava completamente irreale.